Bellissimi, bellissimi. Buonasera anche da parte mia. Avete sentito questo posto tremare? Il mio cuore ha tremato, e il mio cuore trema, e i nostri cuori tremano, e i luoghi dove Dio si presenta tremano quando la sua presenza è forte. E io questa sera l'ho sentito, non so voi. È proprio in questo stesso spirito di adorazione dove lui scende con la sua presenza, vorrei continuare così, direttamente, senza fare nessuna introduzione, tuffarci dentro, affinché possiamo continuare ad adorare il nostro Dio, il magnifico, il più grande, attraverso questo salmo. Vi prego, abbiamo 35 minuti, Dio volendo, sarà qualcosina in più, Gianluca volendo. Facciamo tutto quello che dobbiamo fare per concentrare i nostri cuori. Inizia una battaglia quando entriamo in questo luogo per i nostri pensieri, per la nostra concentrazione. Combattiamo per i prossimi 30-40 minuti affinché noi possiamo rimanere in meraviglia e in timore davanti al nostro Dio che è magnifico. Facciamo una cosa, ci alziamo in piedi, chiudiamo i nostri occhi. E leggiamo il Salmo 13. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando farò deliberazioni nella mia anima e avrò afflizione nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Guarda, rispondi, mio Signore, mio Dio, illumina i miei occhi perché io non mi addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. Ma io confido nella tua bontà, ma il mio cuore gioierà per la tua salvezza, ma io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Padre, noi siamo qui davanti a te e davanti alla tua parola. Padre, tu ci dici che la tua parola è una spada a doppio taglio che mette a luce ogni cosa. Padre, io ti prego affinché tu possa portare alla luce ogni cosa più profonda nei nostri cuori e cambiarli e trasformarli alla tua meravigliosa presenza, Signore Gesù. E Padre, io prego per questo momento e in questo momento per questo senso di timore e tremore davanti a te. Padre, di questo senso di meraviglia davanti al glorioso Dio che sei. Padre, io ti prego per un senso di riverenza davanti al grande, al magnifico, all'eterno che sei. Padre, è una cosa gloriosa che noi possiamo venire e parlare a te e cantare a te, a riunirci davanti a te, colui che ha creato l'universo, le stelle, il sole, la luna, la terra, noi e tutto che è in essa, colui che quando parlava le montagne tremavano, Signore, colui che ha aperto le acque, colui che ha guidato il suo popolo, colui che è resuscitato dai morti e continua a resuscitare i morti, colui che ha guarito, colui che ha dato vista ai ciechi, colui che salva, Signore, noi siamo davanti a te. E io prego per questo senso di meraviglia, per questo senso di timore, per questo senso di riverenza davanti a te, l'Altissimo, ringraziandoti perché possiamo venire davanti a te. Padre, a te sia la lode, a te sia la gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Vi potete accomodare. Ovviamente, come forse avrete notato, questo è un salmo di lamento. No? Allora, stasera ho chiesto che siano sempre presenti i versi, così ci possiamo concentrare soprattutto e più di tutto sulla parola. Quindi se, tanto io sono, mi vedete tutti, sono quello che sono, quella è la cosa più importante. Quindi fissiamo lo sguardo su quello che Dio ha da dirci questa sera. E chiaramente è un salmo di lamento, ci si lamenta. A dire il vero, come ho detto anche due volte fa per quanto riguarda i salmi, i lamenti sono quelli più numerosi, lo sapevate? Sono i più numerosi. Non solo sono i più numerosi, ci sono quelli individuali, cioè le lagne che ti puoi fare da solo, e le lamentele collettive o di comunità, cioè ci si può lagnare pure insieme. Fantastico, bellissima sta cosa, vero? No, è nella nostra cultura che il lagnarsi, il lamentarsi, siamo un po' allergici, non ci piace, no, quando uno si lagna, diciamo, oh, ci passando questo, no? In barese si dice così. E invece la parola di Dio dice, lamentati, fallo, posso dire pure questa cosa, fallo più di un'altra cosa? Beh, forse non sta arrivando a questo punto la parola di Dio, però sicuramente ci si può lagnare, ci si può lamentare e ci si deve farlo. Lo si deve farlo, scusate, lo si deve farlo, perché la parola di Dio ci guida a farlo. Ma dobbiamo farlo come la parola di Dio ci guida a farlo. Quindi, prima di dire ogni altra cosa, su questo salmo, su questi versetti, devo dirvi due cose importantissime. Il fatto che ci sono salmi di lamentela, di lagna, vuol dire due cose. Una, che Dio è più interessato, ascoltate bene, Dio è più interessato alle crude, oneste nostre preghiere che a delle preghiere formali, scritte bene, fatte bene e dette bene. Dio è più interessato al tuo cuore, alla tua sincerità. Per questo va bene se ti lamenti davanti a Dio. Non ci sono problemi. Abbiamo detto pure in mezzo a noi, da quante volte? No, davanti a Dio non ci si lamenta. Va sempre tutto bene, vero? No. Secondo i salmi, no. Quindi la prima cosa vera è che Dio è più interessato alle tue preghiere crude e oneste, anche sbagliate, vedremo, che alla formalità, a quella scritta bene, fatta bene, detta bene. Uno. Due. Dobbiamo anche sapere che il lamento non è mai fine a se stesso. Nella maggior parte di tutti i salmi di lamento, nella stragrande maggioranza, sono proprio alcuni che non lo fanno, il salmo finisce con speranza, con fede e con certezza in un Dio più grande. E questo lo vedremo. Quindi Dio è interessato più alle tue crude preghiere per quello che sono, quindi falle, ma finisci anche con i salmi, finisci con i salmi di lamento, finisci insieme a loro. Qual è il lamento? Qual è il lamento? I primi due versetti, quelli che vediamo letti, e li possiamo rileggere. Fino a quando? Dice il salmista. Fino a quando, Signore? Fino a quando? Fino a quando? Lo dice quattro volte. Non è fantastico, è bellissimo. A me piace assai. Fino a quando? Si vede tutto il dolore, tutto lo strazio, tutta la depressione del salmista che grida a Dio in tutta sincerità e gli dice: fino a quando? Sono stanco, non ce la faccio più, Signore. Fino a quando? Fino a quando? Fino a quando cosa? Tre cose. I due primi fino a quando sono direttamente rivolti a Dio. E sono direttamente rivolti a Dio per la sua assenza, no? Verso 1 e 2, verso 1. Fino a quando mi dimenticherai? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando mi ignorerai? Fino a quando non lo vedi il mio stato? Fino a quando io non ti vedo, non ti sento, non ci sei? Fino a quando? Perché tutto questo? Il salmista si lamenta davanti al Signore. Nella Bibbia il volto di Dio, verso 1, fine del verso 1, nella Bibbia il volto di Dio era simbolo di benedizione se c'era, la benedizione sacerdotale recitava proprio questo, fai risplendere il tuo volto su di noi per benedirci e darci pace. Quindi nel Vecchio Testamento il volto di Dio era proprio il simbolo della sua benedizione e l'assenza dello splendore del suo volto sul suo popolo era di maledizione, era di perdizione, era di smarrimento ed era di depressione. E il salmista grida proprio questo: fino a quando ti dimenticherai di me? Fino a quando nasconderai il tuo volto? Non ti vedo, non ti sento. Fino a quando succederà questo? In tutto questo dolore, però, notate la maturità di questa preghiera. Perché quanto spesso, no? Noi siamo perfetti, vero? A noi non succede mai. Però quanto spesso non sentiamo Dio, non vediamo, e da tempo, forse da una settimana, due settimane, tre mesi, sei mesi, un anno, due anni, che non sentiamo più quella vicinanza, che non sentiamo più quella presenza. E che cosa facciamo magari? Smettiamo di pregare, smettiamo di venire, smettiamo di fare, smettiamo di... Perché forse Dio si è dimenticato di noi, perché forse Lui non c'è, il salmista no. Il salmista in tutta la sua maturità lamenta Dio fino a quando? E mi lamento, mi sto lagnando, però io so che tu ci sei. Fino a quando non ti dimostrerai? Fino a quando ti dimostrerai? Sapete, questa preghiera è anche... non è un l'abbiamo sempre detto dei salmi, non è un manuale di come pregare, no? Il manuale è più Romani, no? Romani ci dice quello che è 2, 3, sistematico, teologico, ci dà l'insegnamento, è più di insegnamento. I salmi, abbiamo detto, è sempre un'espressione dei propri sentimenti, più espressione di quel fino a quando tutti i sentimenti del salmista escono fuori qui. Non è un insegnamento questo. Se no ci avrebbe detto che l'assenza di Dio era solo apparente. No, perché sappiamo che Dio è onnisciente, Lui sa ogni cosa, sa il tuo uscire, il tuo entrare, sa dove sei in ogni istante della tua vita, se lo percepisci o no. Però il Salmo non ci dice questo. E il salmista non dice questo. Dice solo fino a quando. In tutto il suo dolore. Il secondo fino a quando. Scusate, il terzo fino a quando, perché i primi due appunto sono rivolti per l'assenza del Signore. Il terzo fino a quando il salmista lamenta il subbuglio dei suoi pensieri, no? Leggiamo, fino a quando farò deliberazioni nella mia anima? Fino a quando avrò la Warren Gap? Fino a quando il mio cervello si incespicherà nei miei pensieri, nei miei affanni, nelle mie ansie, nelle mie paure, nelle mie incertezze? Fino a quando succederà questo? Questo è il terzo fino a quando. Il salmista si rivolge di nuovo a Dio, punta al dito, denuncia a Dio. Fino a quando? Tu hai promesso nella tua parola, attraverso il tuo patto, che mi benedirai e sarai vicino a me. E io non lo vedo, non lo sento. Fino a quando io e i miei pensieri avranno questo dolore, questa difficoltà? Fino a quando? Fino a quando? Sembra un po' logico, no? Cioè, siccome Dio non c'è, o meglio, non è percepito, siccome Dio non c'è, i nostri pensieri iniziano a girare. E iniziano a girare, e iniziano a girare, e iniziano a girare. E lì salgono le paure, salgono le ansie, salgono le incertezze, salgono i timori. Questo è quello che sta avvenendo al salmista. Signore, tu non ci sei, io non ti sento. Fino a quando tu starai lontano da me e nasconderai il tuo volto da me? Perché questo succede? Signore, fino a quando i miei pensieri, i miei stati d'animo saranno sconvolti e scombussolati? Fino a quando io, nel profondo del mio cuore, verso due, nel profondo nel mio cuore, tutto il giorno avrò afflizione? Fino a quando? È il terzo fino a quando, è il quarto fino a quando, scusatemi, il quarto fino a quando il salmista lamenta la presenza del nemico. Perché non ci sei? Perché io sono in uno stato confusionale, in preda alle mie ansie, ai miei dolori, alle mie paure, alle mie incertezze. Io divento ancora più debole e il nemico è lì. E lui è sempre il leone che rugge intorno. Aspetta il momento decisivo, debole della preda per attaccare. Fino a quando ci sarà quel nemico che è sempre intorno? Fino a quando ci sarà quel nemico che mi incute timore, che mi renderà ancora più insicuro e che sarà lì pronto a sconfiggermi, ad attaccarmi, ad atterrarmi e a farsi beffe di me? Vedremo. Fino a quando? Fino a quando? Oh, il salmista sta messo male, eh? Oh! Ci siete? Vi ho perso forse un attimino, vi ho angosciato? Sentite un po' di angoscia? Se la sentite va benissimo, se non la sentite è un po' più grave, Perché il sentimento del Salmo è questo. Fino a quando io non ti vedrò? Fino a quando io avrò i miei pensieri, le difficoltà nei miei pensieri, le mie ansie, le mie paure? Fino a quando? Io non ho mai pregato così. Mai. No? Io? No. Io sempre tranquillo, a posto, benissimo. Vorrei poterlo dire. Guardate, questa settimana ho fatto una cosa. Quando mi preparavo, leggevo, pregavo il Salmo. E lo pregavo così. E sarebbe stato bello se fossi stati qui, perché io faccio sempre così. Io cammino fra le sedie e prego. E mi sono detto, di proposito, all'inizio della settimana devo fare questo, devo pregare i primi due versetti. E dicevo, fino a quando, Signore? Fino a quando, Signore? Fino a quando, Signore? Quanto è vero nella mia vita? E quanto è vero, sono sicuro, nella nostra? Fino a quando io non ti sentirò, io non ti vedrò? Signore, troppo spesso io prego e tu non ti riveli come quello che io vorrei. Signore, nei salmi, anche nelle tue preghiere c'è scritto che tu ti rivelerai in maniera tangibile, e invece io non ti sento, io non ti vedo come quel Dio tangibile che fa la differenza nella mia vita. Fino a quando? E pregavo proprio così. E noi siamo chiamati a pregare così, e sono sicuro che prima o dopo nella nostra vita noi l'abbiamo fatto. Abbiamo gridato a Dio, fino a quando? Perché sei nascosto? Perché sei lì? E ci lamentiamo, e va bene, perché la Bibbia ci guida a farlo. Possiamo lamentarci, possiamo farlo, e dobbiamo farlo così, fino a quando? E il salmista poi passa dalla lamentela alla supplica. Cioè i primi due versetti è dove si lamenta. Fino a quando, fino a quando, fino a quando, fino a quando? Fino a quando il Signore sarà lontano? Fino a quando la mia mente, i miei pensieri, le mie ansie, le mie paure saranno lì? Fino a quando il mio nemico sarà sempre lì intorno per fregarmi? Fino a quando? E poi al verso 3 passa a chiedere al Signore. E guardate cosa dice. Dice, guarda, rispondimi, o Signore mio Dio, illumina i miei occhi. Guardami, rispondimi, o Signore, illumina i miei occhi. Questi sono tre imperativi. Questo significa che Davide, il salmista, sta comandando a Dio: guardami, ascoltami, illuminami. Guardami, ascoltami, perché io non ti sento, perché io non ti vedo, perché ho vissuto questa difficoltà, perché sto vivendo questa difficoltà, perché sto vivendo questa situazione, perché sto vivendo questo nemico, perché sto vivendo questa angoscia e questa paura, perché io non ti vedo, guardami. È direttamente correlato, no, al verso 1, che diceva: tu hai nascosto il tuo volto da me e ti sei dimenticato di me. E Davide disse al Signore: ma smettila. È come se dicesse al Signore: basta, non ce la faccio più, guardami, guardami in tutta la tua gloria, in tutta la tua bellezza, in tutto il tuo splendore, guardami, rivolgi il tuo volto di amore nei miei confronti, guardami, perché io non ce la faccio più, sono stremato. E guardami e ascolta le mie preghiere. O mio Signore. È bellissimo questa, o mio Signore. Non sta pregando a un Dio, no? Tu che sei tutto in tutti, un po' personale, no? Tu che sei reverentissimo e altissimo e lì. Mio Dio, mio Signore, io ti ho conosciuto, tu sei mio. Guardami. E ascoltami, perché io non ce la faccio più, io sono angosciato, il mio dolore è profondo. Guardami e ascoltami, guardami e ascoltami. E poi dice, illuminami. No, questo è tutto di nuovo correlato al volto, a quello che ho detto all'inizio. Il simbolo del Vecchio Testamento era che se Dio faceva risplendere il suo volto sui suoi, tutto cambiava, benedizione, pace, salvezza veniva. Se Dio non lo faceva, il contrario. E Davide chiede, illuminami gli occhi, aprimi gli occhi, aprimi gli occhi, fammi vedere, fammi vederti, che io possa vederti, illuminami gli occhi. Come ci aiuta questo a pregare? Come aiuta questo salmo nelle nostre situazioni? Come aiuta te, marito, nella situazione difficile con tua moglie? Non ci si può lamentare. No, lamentati pure davanti a Dio. Dici: Signore, fino a quando questa situazione peserà sulle mie spalle? Fino a quando non vedrò la tua faccia, il tuo volto risplendere su questa situazione e cambiarla? Moglie, fino a quando? Fino a quando? Rivolgiti al Signore con questo fino a quando. Dici: Signore, fino a quando ci sarà questa situazione? Non lamentatevi l'uno con l'altro o l'uno verso l'altro. Davide lo fa al suo Dio, al suo Signore. Genitori, con quel figlio, con quella figlia, con quella situazione difficile: Signore, fino a quando? Fino a quando mio figlio non mi ascolterà? Fino a quando dovrò vederlo andare per quella strada che so che non porterà a bene? Fino a quando? Fino a quando? Lamentati a Dio, vai a Lui. E poi chiedi, guardami, illumina, risolvi, rispondi questa situazione, perché solo Tu lo puoi fare. Il salmista, a dire il vero, non lo dice questo, l'ho aggiunto io. Guardami, rispondi, mio Signore, illuminami i miei occhi, illumina i miei occhi. Guardate, il salmista chiede di guardare, al Signore di guardarlo, al Signore di risponderlo, al Signore di illuminarlo per tre ragioni precise. E dice: perché io non mi addormenti del sonno della morte, affinché il nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. A dire vero, sono due ragioni, no? Uno, affinché io non mi addormenti del sonno della morte, e due, affinché il mio nemico non trionfi e si mette a ridere su di me. Dice: guardami, ascoltami, illuminami, fai queste tre cose. Illumina i miei occhi, dice, illumina i miei, porta luce ai miei occhi. Solo Tu che puoi portare luce, puoi portare vita, quando rivolgi il Tuo volto su di me, fallo su di me, affinché io non mi addormenti del sonno della morte. Che bella frase, no? Bellissima. Illumina i miei occhi affinché io non mi addormenti del sonno della morte. Sapete, una delle cause una dei sintomi maggiori della depressione è la sonnolenza, lo sapevate? Oggi mi insegna mia moglie. Chi soffre di depressione soffre anche di sonnolenza, soffre anche di apatia, soffre anche di: ah, non mi va di uscire, mi chiudo in stanza, rendo tutto buio, tolgo le luci. Il Salmo l'aveva già visto, più di 2000 anni fa, e già l'ha proclamato: illumina i miei occhi affinché io non mi addormenti nel sonno della morte. È interessante questa cosa. Nella tua difficoltà, nella tua situazione, grida a Dio e guarda: illuminami. Illuminami, illumina gli occhi. La morte qui non è necessariamente fisica. Sapete, è interessante come questo salmo non ci dà dei dettagli. Il titolo dice: al direttore del coro, salmo di Davide, punto. Quindi non sappiamo perché si lamenta Davide, non sappiamo qual è la difficoltà che sta vivendo. Non sappiamo se è malattia che porta a morte, non sappiamo se è attaccato dai suoi nemici e quindi circondato nel suo castello, non sappiamo se è la difficoltà col figlio Absalom, non c'è scritto. Sapete perché? Secondo me, lo sto aggiungendo io, affinché noi possiamo metterci qualsiasi difficoltà vogliamo. Affinché il sonno della morte può essere il sonno della morte, la morte di qualsiasi cosa, di qualsiasi nostra situazione, di qualsiasi tua situazione. Metticela la tua situazione. Metticela, grida a Dio e di Signore illuminami, Signore guardami, Signore rispondimi affinché io non cada nel sonno di questa morte. Salvami. Rispondimi affinché io non cada nel sonno della morte. È bellissima questa cosa qua. Noi possiamo portare a Dio le nostre lamentele e le nostre richieste con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro dolore, con tutto quello che tu stai vivendo, con qualsiasi la tua situazione. Puoi andare a Dio e lamentarti in tutta sincerità, in cruda e nuda forza davanti a Dio e dire: fino a quando? Rispondimi, illuminami, guardami, perché senza di te sono perduto, sono morto. È questo che Davide sta dicendo. E questo è il nostro stato. Questo è il nostro stato, affinché, continua, il mio nemico non dica l'ho vinto e non insultino i miei avversari. Sapete come l'ho immaginata io questa cosa? Come il classico documentario del leone che rincorre l'antilope, lo gnu, quello che è di turno, no? A me piace immaginarlo così. Si rincorrono, l'abbiamo visto, fate così con la terra, se l'abbiamo mai, testa, se l'abbiamo mai vista questa scena, no? C'è l'antilope che scappa avanti, il leone dietro che scappa e scappa e scappa, e poi a un certo punto l'antilope vacilla, o lo gnu vacilla, cioè proprio poco, non assai, ma quel giusto il poco che la fa rallentare e il leone la prende ed è fatto secco. È un po' questo che sta dicendo il salmista, no? Cioè non farmi vacillare, perché il nemico è sempre là, costantemente, non farmi vacillare. Signore, grido a te. Signore, ascoltami. Signore, illuminami. Perché non solo il nemico mi farà fuori, ma quando mi vedrà vacillare, gioirà. E leone fa proprio così, no? Quando lo vede vacillare la preda, fa... E mossi e gioisce di quello. Qual è la tua situazione? Dove un nemico ti è intorno. E dove il nostro nemico di sempre ci è intorno. E non solo ci vuole atterrare e distruggere, ma sorridere e beffarsi dei nostri momenti di debolezza. Questo è quello che il salmista prega. Guardami, rispondimi, illuminami affinché non, affinché questa cosa non accada, affinché non, affinché io non vacilli, affinché il nemico non mi atterri e dica l'ho vinto. E affinché non si faccia beffe di me. Questo è quello che il salmista lamenta. Questo è quello che il salmista prega. Questo è ciò che la parola di Dio ci guida a fare. L'ho detto fin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato i salmi. Sono sentimenti, sono emozioni. Più di questo, più di questo. Ma quali sentimenti pesanti anche? Curviamo i nostri sentimenti, curviamo le nostre emozioni, curviamo quello che noi sentiamo in accordo con la parola. Ti devi lamentare, fallo così. Devi gridare a Dio, fallo, fallo, fallo. Non ti dimenticare di Lui. Se c'è una cosa che sta dicendo questa prima parte grande del Salmo è: a prescindere dalla tua situazione, lamentati e grida davanti a Dio, non lo ignorare, non ti dimenticare di Lui. E questa è la maturità della preghiera: a prescindere dalla situazione in cui ti trovi, grida a Lui, lamentati a Lui, vai a Lui, a prescindere da quello che stai vivendo, a prescindere da quello che stai vivendo. Ma dobbiamo fare una pausa importantissima a questo punto, perché il Salmo non finisce qui. E forse arriva la parte, no, non si può dire la parte più bella, perché è tutto, io lo dico sempre, lo so, però il verso 6, scusate, il verso 5 inizia con un ma. E lo diciamo sempre, io lo dirò sempre, ogni qualvolta nella Bibbia troviamo un ma, anche questa mattina l'abbiamo sentito, è importante, va sottolineato, prestate attenzione. Ma, questo ma, io dico sempre, sono grandi quanto una casa, questo ma è grande quanto un grattacielo, è proprio grandissimo. E c'è scritto, ma io, punto. Oh, il salmista arriva qua, si è lagnato, si è lamentato, ha detto, fino a quando, Signore? E poi ha detto, guardami, illuminami, ascoltami. E poi ha detto, ma io, punto. Il salmista sta dicendo, oh, a lagnare, mi dovevo lagnare, l'ho fatto a posto. Mi sono tolto un peso, l'ho fatto. A chiedere quello che dovevo chiedere a Dio, l'ho fatto, affinché non, basta, mo avas. Se Davide fosse stato varese, avrebbe detto, mo avas, ma io, punto. Si è lamentato, ha richiesto e dice, ma io, basta, adesso basta. Qui il salmista inizia una cosa che è bellissima e che è la mia preghiera per ognuno di noi, fratelli e sorelle, che è la preghiera per me e per te, l'arte di predicare a noi stessi. Il salmista inizia a predicare a se stesso e dice, Signore, questo è il mio stato, guardami, ma io, oh, Davide, mo a te, ma io, e sentite questi tre ma io fantastici, ma io confido, ma io confido, ma io gioisco, ma io canto. Ma io, pum, basta, ma io faccio queste tre cose, a prescindere dalle mie lamentele, da quello che ho richiesto, da quello che sto vivendo, ma io qui svolta, qui si gira la frittata, qui cambia ogni cosa, e in ogni lamento l'ho detto che c'è questa svolta di speranza, di fede, di convinzione del salmista e di chi si lamenta. Arriva a questo punto, ci mette un punto e dice, ma io confido nella tua bontà. Io confido nella tua bontà, io confido per quello che tu hai fatto per me. Io confido nel piano che tu hai per me. Io confido che tu hai detto che tu farai risplendere il tuo volto su di me per benedirmi e darmi pace. Io confido in quello. Ma io confido, a prescindere dalle mie situazioni, a prescindere da quello che ho lamentato o richiesto, io, per canto mio, confido. E questa settimana sono arrivato a questo punto dove io mi lamentavo e mi lagnavo. Qual è la fila che è rimasta? E io ho detto, ma io confido, ma io gioisco, ma io canto. Sono arrivato a questo punto, proprio qua stavo, no, non lo so dove stavo. E ho detto, ma io, forse in tutte le file, ho detto, ma io, ma quanto a me. E vi posso assicurare che mi sono lagnato delle mie cose e a questo punto il mio cuore è risorto. Il mio cuore ha acquisito nuova luce. Il mio cuore ha acquisito nuova vita. E ha detto, ma io confido in quello che Dio è, quello che Lui ha promesso di essere, quello che Lui ha promesso di fare. Ma io confido nella sua bontà. Ma io, il secondo ma io, dice... Ma il mio cuore, la parte più intima di me, gioirà per la tua salvezza. Gioirà, o si è lamentato e adesso gioisce. Non ha senso, è schizofrenica sta cosa, eh? Sta predicando a se stesso. Io sono depresso, mi sto lagnando, ma io gioirò. La reazione normale e naturale delle nostre situazioni è ansia, paura e depressioni. Noi dobbiamo predicare a noi stessi gioia, ma io gioirò. So che in questa situazione la reazione normale sarebbe scoraggiamento, paura, depressione, ma io, il salmista dice, ma io gioirò. Se c'è una cosa che voglio imparare e che ho pregato tanto questa settimana, Signore, aiutami a predicare a me stesso, affinché io possa gioire. Se c'è una cosa che manca in me, è proprio questa, è proprio l'arte di fare questo e di dirmi, ma io gioirò. Chiesa, che noi possiamo imparare a predicare noi stessi, a dire, ma io, a prescindere, gioirò. In che cosa? Nella salvezza di Dio. C'è scritto, nella salvezza di Dio, perché Lui salva, perché Lui è salvezza. Sapete, me li date in altri 5 minuti? Sapete questo termine nell'ebraico originale come è pronunciato? Il termine salvezza nell'ebraico si dice Yeshua. La parola salvezza in ebraico è Yeshua. Sapete la radice di questo termine? Che nome fa scaturire? Yeshua, no? Gesù. Gesù. Ora il salmista sapeva che il Messia sarebbe stato chiamato Gesù da questo termine. Sapeva che lui stava comandando a se stesso, prendeva cose di gioire in Cristo Gesù? Non lo so. Molto probabilmente no. Stavo unicamente usando il termine Yeshua, che significa salvezza. Ma Dio, che ha ispirato il salmista, che ha ispirato la sua parola, che ha ispirato il nome di suo figlio, che da eternità passata a eternità futura vede ogni cosa, ha usato questo termine, dal quale noi ricaviamo Gesù. E noi con tutta forza possiamo dire e predicare noi stessi, a prescindere dalla mia situazione, io gioirò in Cristo Gesù, che è la mia salvezza. In 2 Corinzi, al capitolo 4, c'è scritto questo. Mi sono un po' perso, quindi lo devo trovare. C'è scritto questo, c'è anche sullo schermo. Dio disse: splenda la luce fra le tenebre. È quello che risplendè nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Che sta dicendo Paolo con questa frase un po' complessa, un po' articolata? Sta dicendo: Dio, che ha detto luce sia, ha detto luce sia nei nostri cuori. E questa luce nei nostri cuori è la gloria, è la luce della conoscenza della gloria di Dio. È Lui, in tutta la sua gloria, in tutta la sua bellezza, in tutto chi Lui è, ha fatto risplendere quella luce nei nostri cuori. Quello che ha detto luce sia, ha fatto risplendere questa luce nei nostri cuori, nel tuo e nel mio cuore, che abbiamo accettato Cristo Gesù come personale salvatore. Come l'ha fatto Dio a far risplendere questa luce della conoscenza della gloria di Dio nei nostri cuori? L'ha fatto così, facendo risplendere, che rifulge, l'ultima virgola, l'ultima parte del verso, che rifulge nel volto di Cristo Gesù. Ha fatto una cosa, ci ha fatto vedere il volto di Cristo, che brilla della luce, della gloria, della conoscenza di Dio. E l'ha fatta risplendere nei nostri cuori, ha fatto risplendere il suo volto su di noi e ci ha portato salvezza. In questo noi gioiamo. Questo il salmista lamentava all'inizio: non vedo il tuo volto, non vedo la tua gloria, fino a quando? Illumina i miei occhi, perché io ho bisogno di vedere quello, io ho bisogno di vedere la luce della gloria di Dio riflessa nel volto di Cristo Gesù. In quello possiamo gioirci, e soltanto in quello possiamo gioirci, perché lì solo c'è salvezza. Se sei qui questa sera e non conosci quel Salvatore, non conosci quella luce che cambia e fa girare ogni lutto, ogni lamentela, ogni disastro in gioia, la mia preghiera è che questa sera tu possa incontrare quella luce. E vi assicuro, non è nessuna incontro mistico o chissà cosa, è incontrare il volto di Dio in tutta la sua bellezza, per quello che è per noi nella nostra situazione, che la cambierà. Ma io gioirò nella sua salvezza, ma io gioirò in Yeshua, io gioirò nella sua salvezza. L'ultima cosa che predica a se stesso Davide e dice: ma io canterò. Ma io canterò, a prescindere dalla mia situazione, la mente, io canterò. Questo è quello che noi facciamo, perché Gesù ci ha salvato, perché ogni nostra situazione sappiamo che è limitata e fine a se stessa, e che anche se siamo chiamati a lamentarci, a richiedere con tutte le nostre forze, con tutti i nostri sentimenti, con tutta la nostra angoscia a Dio di intervenire, sappiamo che abbiamo motivo di canto, perché Lui è stato buono nei nostri confronti, così che finisce il salmo, perché Lui è stato buono nei nostri, Lui ci ha trattato con pura grazia e niente di meno, e niente di meno. Per questo noi cantiamo, per questo noi siamo una comunità che canta. E a questo punto dovrei scendere, dovrei andare un po' più dietro. E ho iniziato a cantare e vi risparmierò. E ho detto: Signore, io canto a te perché tu sei bellissimo, perché tu sei meraviglioso, perché tu mi hai salvato. Notate bene, non c'è nessuna risposta di preghiera in questo salmo, eh? Cioè, Davide è rimasto nella sua situazione. Nella sua situazione ha detto: ma io confido, ma io gioisco, ma io canto. Per questo siamo una comunità che canta. E il pastore diceva molto bene la settimana scorsa: non è un karaoke, non è neanche un concerto. Noi cantiamo perché ci ha salvato. Noi cantiamo perché, a prescindere dalla nostra situazione, dalle lamentele alle richieste, possiamo passare a speranza, fede, possiamo passare a gioia, possiamo passare al canto, perché il nostro Dio è l'unico, è vero Dio, è il grande. Se questa sera non conosci quella luce, se questa sera non conosci il Dio come colui che salva da ogni situazione, prima di andare via grida a Lui, grida a Lui, vieni a parlare con uno di noi, fatti avanti, perché la sua luce è meravigliosa e in qualsiasi situazione porta benedizione. Ci alziamo. E preghiamo insieme, chiudendo i nostri occhi. Vi chiedo in maniera specifica di pensare alla vostra situazione. Mariti, mogli, padri, madri, figli, studenti, operai. Pensate a ciò che vi porta più angoscia, paura, smarrimento, quello che vi tiene svegli la notte. E portiamolo davanti a Dio, gridiamo a Lui e predichiamo a noi stessi. Padre, noi confidiamo in Te perché Tu sei buono. Padre, noi confidiamo in Te perché Tu ci hai salvato, e per questo noi gioiamo. Gioiamo perché Tu sei la nostra salvezza. Cristo Gesù, Tu sei la nostra salvezza. E Padre, noi cantiamo. Padre, noi cantiamo. Padre, noi cantiamo perché ci hai elargito così tanta bontà, così tanta grazia, che ogni lode ti spetta a Te.